Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Allora, ho letto anche questa mattina di questa polizza. Chiaramente a questo punto sono io la prima a voler capire cosa sta succedendo per una vicenda che mi vede del tutto estranea. Forse la volevano mettere in mezzo. Nei confronti di Romeo. Guardi, stiamo lavorando con gli avvocati per capire cosa fare. Insomma, non ne può più di polizze la sindaca di Roma, Virginia Raggi. È spuntata oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una terza polizza fatta a suo nome, di lei beneficiaria, fatta da Romeo, e a questo punto lei dice non so proprio capacitarmi, farò una denuncia, ci farò un esposto, a questo punto mi rivolgerò alla procura. Parleremo però anche di PD questa sera, di PD, perché sembra veramente che la scissione, la spaccatura sia proprio ormai una questione di ore. Addirittura qualcuno dice che gira già un nuovo nome di questo nuovo partito fondato dalla minoranza del PD. Bersani oggi ha lanciato un ultimo appello all'unità in una lettera esclusiva alla Finto Post, e poi ne parleremo. Però Renzi cerca la mediazione, ma sembra che possa essere ormai inutile. E poi è arrivata una notizia poco meno di un'ora fa, molto importante, diciamo, per la rilevanza, poi bisognerà vedere quali sono i dettagli. È indagato Tiziano Renzi, padre di Matteo Renzi, nella vicenda Consip, che è la centrale acquisti della pubblica amministrazione. Ne parleremo con chi ha seguito l'inchiesta e questa vicenda. Insomma, moltissimi argomenti come sempre. Ci occuperemo anche di Trump, che oggi fra le varie cose ha annunciato anche un nuovo piano sull'immigrazione dopo che è stato sospeso il suo bando. Per interagire con Effetto Notte, lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, lì per voi giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Prima di approfondire i vari temi, vi racconto in sintesi la giornata. Vicenda Consip, Tiziano Renzi, padre di Matteo, indagato per traffico di influenze. Le tensioni nel PD, Bersani lancia un ultimo appello all'unità, fermatevi, dice non stravolgiamo il PD per le velleità di uno solo. Renzi intanto tenta la mediazione, ma la minoranza è pronta allo strappo. Roma, la sindaca Raggi annuncia un esposto contro Romeo sulle polizze, oggi la notizia di una terza, e spunta una cassetta di sicurezza, lui si difende, dice sono solo gioielli di un'amica. Il terremoto del 2009 in Abruzzo, il presidente della regione D'Alfonso indagato per corruzione, ma lui si dichiara estraneo ai fatti e fiducioso nella magistratura. Stati Uniti, l'annuncio di Trump, la prossima settimana nuovo decreto sull'immigrazione, intanto nomina Acosta nuovo ministro del lavoro, e il Wall Street Journal scrive che gli 007 non si fidano di Trump. Taxi in rivolta per il rinvio del mille proroghe delle norme antiabusivi, protesta dei tassisti a Roma e Milano, disagi per l'intera giornata. L'ennesimo femminicidio, un settantenne in provincia di Grosseto uccide la moglie con il cavo del computer, tenta la fuga e poi confessa. Tragedia in montagna, Gressonei, in Val d'Aosta si stacca una cascata di ghiaccio, muoiono 4 scalatori italiani. E per il calcio c'è l'Europa League. In campo ancora la Fiorentina, poi vedremo qual è il risultato al momento. La Fiorentina ha battuto per 0-1 il Borussia, e poi c'è in campo la Roma. Partiamo quindi dalla notizia, vi dicevo, arrivata poco meno di un'ora fa. Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, è indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sugli appalti Consip, che è la centrale acquisti della pubblica amministrazione. Tiziano Renzi avrebbe ricevuto oggi un invito a comparire nel quale si ipotizza il reato di concorso in traffico di influenza. Poi cercheremo più tardi di capire di cosa si tratta. I PM di Piazzale Clodio intendono sentirlo a breve, forse già la prossima settimana. E poi il terremoto del 2009 in Abruzzo, il governatore della regione Luciano D'Alfonso è indagato per corruzione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio in un'inchiesta sull'affidamento di appalti dopo appunto il terremoto del 2009. Mi dichiaro totalmente estraneo, ha scritto il presidente. Intanto sono stati sequestrati documenti sulla gara da 13 milioni per l'affidamento della ricostruzione di Palazzo Centi, sede della presidenza della regione. Su questa vicenda torneremo a parlare più tardi nel corso di Effetto Notte per maggiori dettagli. Le tensioni sempre forti nel PD, sempre più forti. Bersani, con una lettera alla Huffington Post, lancia un ultimo appello all'unità, dice fermatevi, non stravolgiamo il PD per le velleità di uno solo. Nel frattempo Matteo Renzi tenta la mediazione, ma la minoranza è pronta allo strappo, e secondo i rumors, come si dice, ci sarebbe già il nome del nuovo partito. Cercheremo di scoprirlo tra poco. Adesso a Roma, dove è spuntata, come avete sentito all'inizio, una terza polizza in favore della sindaca Virginia Raggi. Annuncia un esposto in procura Virginia Raggi dopo la notizia della terza polizza vita stipulata a suo beneficio da Salvatore Romeo, ex capo della sua segreteria. La nuova polizza da 8.000 euro porta la data del 26 gennaio, cioè 48 ore dopo l'avviso a comparire ricevuto dalla sindaca per l'inchiesta sulle nomine in Campidoglio che la vede indagata. Forse una manovra per incastrarla, sospettano gli inquirenti. È inaccettabile che Romeo abbia fatto una cosa del genere, ne prendo totalmente le distanze, commenta la prima cittadina. Ho letto anche questa mattina di questa polizza, chiaramente a questo punto sono io la prima a voler capire cosa sta succedendo, per una vicenda che mi vede del tutto estranea. Dalle indagini è emerso anche che Romeo era titolare di una cassetta di sicurezza che fu svuotata lo scorso 19 dicembre, il primo giorno utile dopo l'arresto di Raffaele Marra. Ai PM Romeo ha spiegato che era utilizzata da una sua amica per custodire gioielli di famiglia, una versione confermata dalla donna che però non avrebbe detto nulla sul contenuto della cassetta. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Una notizia che riguarda la pubblica amministrazione. Il piano straordinario per il superamento del precariato nella pubblica amministrazione scatta per chi abbia maturato almeno 3 anni di servizio, anche se non continuativi, negli ultimi 8 anni. Ed è questa la novità, gli ultimi 8 anni. Quindi, visto che il programma parte nel 2018, l'anzianità minima si calcola a partire dal 2010. La misura è contenuta nella riforma del pubblico impiego. E poi c'è la notizia che sono 280 sono stati i licenziamenti scattati nel 2015 nei confronti di dipendenti pubblici, a tenere il conto è l'ispettorato del Ministero della Pubblica Amministrazione. Rispetto all'anno prima si registra, in base ai dati pervenuti nel 2015, un deciso aumento di licenziamenti, più 23,3%. Quanto alle cause, 108 licenziamenti derivano dalle assenze. Nel 2015 ancora non era entrato in vigore il decreto antifurbetti del cartellino, che domani tornerà in Consiglio dei Ministri. La stretta sugli assenteisti è però stata annunciata proprio nel 2015. All'estero adesso, Stati Uniti, il presidente americano Trump ha nominato Alexander Acosta ministro del lavoro. Acosta è l'attuale rettore del Florida International University College of Law di Miami. E oggi il Wall Street Journal ha scritto che le agenzie di intelligence americana non rivelano al presidente Trump informazioni sensibili, temendo fughe di notizie o la loro compromissione. Trump, già sul piede di guerra, annuncia gli esseri spregevoli responsabili delle fughe di notizie saranno catturati. E in serata ha annunciato, sempre Trump, un nuovo piano sull'immigrazione dopo la sospensione del suo bando. In Pakistan ora continua a salire il bilancio dei morti dell'attentato suicida avvenuto oggi in Pakistan contro il tempio di Lal Shabazz Qalandar a Shewan, nel sud del paese. Fonti della polizia pakistana parlano di un centinaio di morti, tra cui donne e bambini, lo riporta il sito web Times of India. L'attentato è stato rivendicato dall'ISIS. E poi c'è l'omicidio misterioso del fratello del dittatore nordcoreano di alcuni giorni fa. Fonti del governo sudcoreano hanno fatto sapere che il gas nervino potrebbe essere stato usato per uccidere Kim Jong-nam, fratellastro appunto del leader nordcoreano Kim Jong-un. È successo a Kuala Lumpur. Secondo i media di Seoul, nel mirino c'è appunto questo elemento, questa sostanza VX, capace di paralizzare parti del sistema nervoso con l'inalazione o il contatto con la pelle, causando problemi respiratori mortali. Il VX sarebbe stato usato, in base all'intelligence sudcoreana, diverse volte in passato da sicari della Corea del Nord. Se confermato, sarebbe considerata la firma di Pyongyang, quindi del dittatore nordcoreano, sulla morte di Kim Jong-nam. E siamo di nuovo in Italia, parliamo del servizio taxi bloccato oggi a Roma, Milano, Torino. Da ieri i tassisti protestano contro un emendamento al decreto mille proroghe che rinvia a fine anno l'entrata in vigore delle misure che impediscono l'esercizio abusivo dei taxi e quelle di noleggio con conducente, compreso Uber. Il servizio è autogestito da un'app, un servizio considerato dannoso dai tassisti. Sentiamo perché. Se io pago una licenza 180.000 euro e la licenza del noleggio costa 15.000 euro, lei come fa a fare concorrenza? Io che prezzi devo fare? La protesta ha paralizzato le città. Roma, mentre il Senato approvava il decreto mille proroghe con l'emendamento bollato, sanatoria salva Uber e abusivi, un migliaio di tassisti capitolini ha protestato vicino a Palazzo Madama e non si è trovato durante la giornata un taxi a Fiumicino, Ciampino, a Termini, anche se alla stazione c'è sempre qualche cliente in attesa. Allora sentiamolo al microfono della nostra Teresa Trillò. Da quanto tempo è che aspetta il taxi? Un quarto d'ora. Sa che oggi c'è una protesta? Sì, ho saputo adesso. Attende comunque speranzoso? Ah, attendo speranzoso se qualcuno non aderisce allo sciopero. Diversamente mi incamminerò. E a Milano intanto proseguono le assemblee dei tassisti, i disagi potrebbero proseguire anche domani o fino a quando il prefetto non riceverà i sindacati che hanno chiesto un incontro urgente. Le proteste sono finite nel mirino del garante degli scioperi, che considera violate le norme sullo sciopero perché non è stato rispettato l'obbligo del preavviso di 10 giorni. Il ministro dei trasporti Delrio ha convocato tutte le sigle sindacali dei tassisti per il 21 febbraio. E ora la cronaca con l'ennesimo femminicidio. Una donna è stata trovata morta questa mattina strangolata in un appartamento a Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto. Il marito ha confessato ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. La vittima si chiamava Edwige Anna Costanzo, aveva 68 anni, è stata strangolata con un cavetto del PC. I sospetti erano caduti subito sul marito, ormai diciamo è abbastanza conseguenziale. Alberto Novembri, 70 anni, rintracciato dai carabinieri mentre cercava di allontanare col cellulare spento da Orbetello verso Roma. E parliamo delle tragedie della montagna, con 6 vittime oggi. 4 erano italiani, scalatori esperti, sono morti in Val d'Aosta. Potrebbe essere stato un improvviso rialzo termico a far cedere una cascata di ghiaccio a Grassonnet-Saint-Jean, che ha portato alla morte di 4 scalatori. Ma il caldo non è da considerarsi l'unica causa, come spiega Adriano Fevre, direttore del soccorso alpino valdostano. I motivi possono essere molteplici. Il rialzo di temperatura che c'è stato in questi ultimi giorni, può esserci un motivo di sovraccarico, di peso, tutta una serie di fattori che non sono facilmente individuabili all'esterno. A staccarsi dalla roccia è stata la parte intermedia dell'enorme parete di ghiaccio, proprio dove si trovavano i 4 scalatori, tutti cinquantenni, 2 uomini e 2 donne, 3 di loro di La Spezia, una invece di Massa Carrara. Erano tutti esperti e grandi appassionati di montagna. Uno di loro era anche una guida del CAI. Una 5ª persona si è salvata perché è rimasta attaccata ad una parte di cascata che non è venuta giù. Nelle stesse ore, 2 alpinisti di nazionalità britannica sono precipitati e morti mentre scalavano una cascata di ghiaccio alla Grave sulle Alpi francesi. Anche in questo caso il caldo sarebbe stato il motivo principale del crollo. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora Milano che è in queste ore città divisa sulle palme in Piazza Duomo. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab. Niente oleandri o baobab, ma un'oasi di palme in Piazza Duomo a Milano. Ormai ne stanno parlando tutti in rete, la discussione del momento. La catena americana Starbucks ha vinto il bando del comune per il restyling degli spazi verdi alle spalle del monumento equestre a Vittorio Emanuele II. Ovviamente di giudizi sfumati sul nuovo giardino esotico non ce n'è. L'unico cauto è il sindaco di Milano, Beppe Sala, che dice: da cittadino sospendo il giudizio, vediamo quando sarà finito il lavoro. Ma da sindaco probabilmente dovrebbe aver ben chiaro come sarà il lavoro finito. Anche perché dopo le palme nei prossimi giorni arriveranno i banani, le ortensie, l'ibisco. Mancano solo le scimmie, attacca il leghista Matteo Salvini. I consiglieri di Forza Italia hanno interrotto una seduta del Consiglio dove si stava discutendo il bilancio di previsione, mettendosi al centro dell'aula con delle banane gonfiabili. L'installazione, che ornerà la piazza per 3 anni, è stata studiata da un noto architetto milanese, Marco Bai, e si ispira a una tradizione di fine 800. In rete circolano foto d'epoca proprio con le palme davanti al Duomo. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso direi di vedere che cosa, di sentire anzi che cosa succede per quanto riguarda la Roma in Europa League contro il Villarreal. C'è il nostro Giovanni Capuano. Caro Giovanni, buonasera. Eccomi Roberta, buonasera. Beh, succede che dopo 11 minuti la Roma è ferma sullo 0-0, gioca Villarreal. Villarreal, che è una delle squadre più forti della Liga, o almeno lo è stato nella passata stagione. Roma, che ha cominciato bene in questi primi 10 minuti, si è già fatta vedere almeno in un paio di occasioni dalle parti della difesa degli spagnoli. Gli spagnoli, che soprattutto in casa sono molto temibili, i giallorossi che non sono ancora arrivati alla conclusione, ma che in questo momento sono padroni della partita. Roma, che gioca con il 3-4-2-1, ci sono fuori Perotti e Salah, al loro posto c'è il Sharawi con Nainggolan e Dzeko, questo è il tridente davanti. Però a parte questo e a parte il portiere di riserva, tutti gli altri sono titolari, segno che non c'è nessuna intenzione di snobbare l'Europa League arrivati all'altezza dei 16esimi di finale. L'altra buona notizia viene da Mönchengladbach, quindi dalla Germania, dove la Fiorentina, partita che si è chiusa da pochi minuti, ha vinto per 1-0 la sua gara d'andata, ha deciso un gol bellissimo, straordinario di Bernardeschi su punizione al 43esimo del primo tempo. Per Bernardeschi è la 13esima rete stagionale e oggi, Roberta, era il giorno del suo 23esimo ventunesimo compleanno, e quindi insomma l'ha festeggiato come si conviene. Questa è una vittoria pesantissima, perché ovviamente mette mezza qualificazione in tasca alla squadra viola, ed è la prima storica vittoria per la Fiorentina in terra di Germania. Non era mai capitato nelle coppe europee della Fiorentina di riuscire a sbancare uno stadio tedesco. È accaduto oggi a Mönchengladbach contro il Borussia 1-0, gol di Bernardeschi su punizione. A Villarreal, 13° minuto, 0-0 tra Villarreal e Roma. Grazie Giovanni Capuano, poi naturalmente ci aggiorniamo sul come procede la partita. Intanto, per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Dice per esempio Walter: non c'è due senza tre per Virginia, sempre a sua insaputa a proposito delle polizze. E poi un altro messaggio: Virginia chiama la polizia invece che la polizza, vabbè. E poi c'è chi dice che il Fatto Quotidiano, Fabio scrive, il Fatto Quotidiano scrive di Consip con implicati sottosegretario Luca Lotti, il padre di Renzi e altri, da oltre due settimane. La notizia comunque è ufficiale in questo momento e tra pochissimo ne parliamo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme, Roberta Giordano con voi, le notizie, le maggiori, le principali, le più importanti della giornata le avete sentite in questo racconto del giorno, come sempre in sintesi all'inizio. Non perdete Effetto Notte tutte le sere, dalle 21 alle 22, in modo che un giorno non potrete dire io non lo sapevo a proposito di una notizia, perché se seguite Effetto Notte siete costantemente aggiornati a fine giornata. Per i vostri messaggi, le vostre interazioni, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666, vedo molti messaggi anche sul PD. E poi un altro ascoltatore, per esempio, che si firma Tucatuca, dice: nome del partito di sinistra, Halligalli in 10, dalla canzonetta di Edoardo Vianello, poi ne parleremo. Adesso invece ci occupiamo tra pochissimo di questa inchiesta in cui sarebbe coinvolto Tiziano Renzi, ma prima vi ricordo quali sono, se non avete acceso puntualmente le 21, i fatti principali. Appunto, Tiziano Renzi, padre di Matteo, indagato nell'inchiesta Consip. E poi Bersani e Renziani lancia l'ultimo appello: fermatevi, la minoranza è pronta allo strappo, anche se Renzi sta tentando l'ultima mediazione. Trump, presidente americano, annuncia per la prossima settimana un nuovo bando sull'immigrazione e Wall Street Journal scrive che i 007, l'intelligence americana, non si fida di Trump. La rivolta dei tassisti contro Uber, caos e traffico in tilt in varie città in Italia. E poi la sindaca Raggi che annuncia un esposto contro Romeo sulle polizze, visto che oggi ne è spuntata una terza. E ancora il governatore dell'Abruzzo, D'Alfonso, indagato per corruzione per appalti dopo il terremoto del 2009. Lui si dice: sono totalmente estraneo e fiducioso nella giustizia. Si stacca una cascata di ghiaccio, muoiono 4 scalatori italiani a Gressoney in Valle d'Aosta. Questo un mese fa, la tragedia di Rigopiano, purtroppo ricordando appunto le tragedie della montagna, delle slavine e in questo caso di questa parete di ghiaccio che è crollata. E poi c'è la partita in campo per l'Europa League, Villarreal-Roma, per il momento sempre 0-0. Poi adesso coinvolgo immediatamente la nostra Sara Monaci del Sole 24 Ore. Buonasera, cara Sara. Buonasera, buonasera. Quindi notizia, dicevo, di circa un'ora fa, spunta il nome di Tiziano Renzi in questa inchiesta sulla Consip, che è, dicevamo, la centrale degli acquisti della pubblica amministrazione. Ci spieghi un po' che storia è questa, Sara? Allora, premesso che ancora andrà capita, perché Renzi ha, il padre di Renzi ha questa presunto capo di imputazione, questa indagine anzi in corso relativa a questo reato recente che è il traffico illecito di influenze, ovvero quando qualcuno parla di contatti reali, quindi non millantato credito, contatti reali che ha per avere benefici per sé o per qualcun altro. Quindi lo ricordo che quando questo qualcuno parla di qualcun altro, questo qualcun altro è parte lesa. In questo caso evidentemente sarebbe un po' il figlio, ma qui sto andando un po' al ragionamento e vi spiego per quale motivo. Perché l'inchiesta è quella, come hai detto tu, sugli appalti della Consip. In questo caso era indagato Alfredo Romeo per aver corrotto i presunti i vertici dei dirigenti della Consip per avere degli appalti da 2 miliardi. Questa indagine sta proseguendo ed è un'indagine appunto su cui si dovranno avere degli sviluppi. Ma gli investigatori... Sara, scusami, perdonami, preciso solo, siccome si parla di un altro Romeo in questi giorni, quello è Salvatore, esatto, Romeo, riguarda la giunta romana, questo è un altro, è un imprenditore Romeo, questo, è un Alfredo Romeo. Un imprenditore napoletano che avrebbe avuto appunto contatti con i dirigenti di Consip per avere degli appalti. Gli investigatori, sia intercettando, facendo altre ricerche, si sono accorti che un faccendiere al momento sconosciuto parla del fatto che avrebbe avuto, questo faccendiere, dei contatti con i vertici di Consip e anche rapporti con un certo Carlo Russo, che è un imprenditore di Scandicci, il quale è molto amico con Tiziano Renzi, si sono invitati reciprocamente ai matrimoni, si parla di battesimi, insomma tutti i pettegolezzi che erano usciti, insomma i rapporti tra Carlo Russo e Tiziano Renzi erano dei buoni e leciti rapporti. Cosa succede? Quindi sembrerebbe che Alfredo Romeo, questo primo imprenditore indagato, cercasse attraverso questo Carlo Russo di ottenere dei favori e dei contatti attraverso il padre di Renzi, con lo stesso Renzi, il quale a sua volta avrebbe quindi, secondo la ricostruzione e anche le sue idee, favorito eventuali contatti con i vertici della società che fa appalti per la pubblica amministrazione. È per questo che Tiziano Renzi sarebbe indagato, perché probabilmente lui stesso, se ricostruisco bene dal reato che gli viene imputato, che è appunto il traffico illecito di influenze, probabilmente lo stesso Tiziano Renzi per l'inquirente avrebbe vantato un'agevolazione, un contatto agevolato con il governo del figlio, quindi evidentemente il contatto c'era. Quindi la ricostruzione è ancora da approfondire. I contatti sarebbero quelli che Tiziano Renzi avrebbe con questo imprenditore Carlo Russo ad essere finiti nel mirino della Procura di Roma. Quello che va sottolineato è che il traffico illecito di influenze è un reato recente, anche controverso per certi versi, proprio perché non si tratta di corruzione e non si tratta nemmeno di millantato credito, è qualcosa che sta nel mezzo e che è ancora, diciamo, un po' pionieristico per gli stessi inquirenti. Ricordo che l'ultima volta che lo abbiamo visto è quando si dimise la ministra Guidi. Lei parte lesa perché il suo fidanzato Gemelli raccontava di essere appunto il suo fidanzato e quindi... Esatto. E di avere per questo dei vantaggi. La Guidi tecnicamente è parte lesa, ma si dovette dimettere, quindi è spesso un reato che si incontra con l'opportunità politica e chiaramente l'opportunità politica potete immaginare in questo momento qual è, anche per Renzi stesso, perché è inevitabile che il nome più che il reato sia molto sonoro. Renzi in questo momento sta facendo una sua battaglia all'interno del PD, è stato ex premier, quindi io mi aspetto sicuramente degli sviluppi, almeno che chiariranno il contesto. Se anche però l'inchiesta non dovesse poi portare a delle grandi conclusioni dal punto di vista giudiziario e fosse in qualche modo un atto dovuto, io mi aspetto un eco molto risonante dal punto di vista politico. Inevitabilmente. Come spesso questo reato, insomma, lo ricordo, il traffico illecito di influenze almeno al momento ha portato più conseguenze politiche che non giudiziarie. Non penali. Grazie chiarissima Sara Monaci, buon lavoro per il Sole 24 grazie. Ore. Ciao Sara. Grazie. Ciao. Appunto, si parlava di PD in qualche modo, anche visto che c'è di mezzo Renzi che sta iniziando la sua campagna elettorale e ha nella direzione di lunedì lanciato il congresso subito, cioè passato il suo ordine del giorno. La direzione del PD di lunedì ha ulteriormente spaccato il Partito Democratico tra maggioranza renziana e minoranza di sinistra, tanto da far dire a Bersani già il giorno dopo: ma lasci scissione, in realtà la scissione è già avvenuta, ha detto, perché ormai il PD è diventato il PDR, cioè il partito di Renzi. Oggi è tornato a parlare Bersani, in realtà ha scritto una lettera appello che ha mandato all'Huffington Post. In sintesi dice: fermatevi, si travolge il PD per le velleità di Renzi, è un ultimo appello, dice lui, all'unità. Viene messa una spada di Damocle sul nostro stesso governo, si trasforma il percorso congressuale in un'immediata e rapida conta, sto raccontando in sintesi. E poi dice Bersani in questa lettera: prima il paese, poi il partito, poi le esigenze di ciascuno. Questo criterio per me, per tanti e spero per tutti noi, è una, in base alla stessa politica. Se noi non teniamo ferma questa sequenza, non siamo più il PD. Mi sono dunque rivolto, dice Bersani, e mi rivolgo a tutti quelli che hanno buon senso, al segretario e a tutti coloro che lo hanno sostenuto. Dico: non date seguito alle infauste conclusioni dell'ultima direzione, fermatevi. Questo all'Huffington Post. E ne parliamo allora direttamente con il giornalista dell'Huffington Post, che è Alessandro De Angelis. Alessandro, benvenuto, buonasera. Ciao, buonasera a voi, ciao ciao. Addirittura, visto che voi titolate che si ragiona già sul nome del nuovo partito, quindi questa mediazione di Renzi, questo appello all'unità di Bersani è soltanto, trattasi di fiction, dice Franco Crepaldi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a noi italiani in effetti piace. Fiction, poi in esclusiva l'avete avuta voi, no, questa no, no, non è fiction, no, no, no, non è fiction, è una cosa vera e anche drammatica. Io credo che la scissione sia più vicina, perché la scissione, e stanno ragionando coloro che se ne andranno, che fonderanno una nuova cosa, un nuovo partito, un movimento, e già sul nome e sui numeri degli eventuali gruppi parlamentari. Ma perché si dividono? Perché si dividono? Perché sembra tutto molto, molto poco chiaro, molto da detti e lavori. Ieri dice, scusami, Emiliano ieri diceva: se manca un sogno comune è inutile stare insieme. Questo sogno comune, questa visione comune del mondo, delle cose, dell'Italia, dei valori? Sì, sì, questo manca da tempo secondo me nel PD. Perché si dividono? Renzi dice, e stanno facendo scissione sul calendario, Bersani dice fermati. Qual è il punto di fondo? Il punto di fondo è questo: Renzi voleva prima le elezioni anticipate a giugno, ti ricordi, lo disse subito dopo il referendum, o governissimo o voto. Poi, quando non è riuscito ad avere le elezioni anticipate, perché c'è il problema della legge elettorale per Mattarella, bla bla bla, a quel punto ha detto congresso subito. Perché congresso subito? Perché vuole una rilegittimazione immediata per poi avere le mani libere sul governo. Lo vuole subito perché poi ci saranno le amministrative e Renzi teme di andare molto male alle amministrative e a quel punto di avere un indebolimento interno della sua leadership. Tieni conto che l'anno scorso perse Roma e Torino, poi ha perso il referendum, insomma, ci manca un'altra sconfitta elettorale e non si mette male. E quindi teme che se non ha una reinvestitura del suo partito subito, sul lungo periodo si logora iniziare la guerriglia interna. Dall'altro lato Bersani che dice? Dice: se io entro dentro al congresso adesso, poi non ne esco vivo, nel senso che poi devo rimanere dentro, allora mi metto fuori, no? E da là inizio un altro percorso, aspettando, tra l'altro, che il PD andrà male alle amministrative e quindi raccogliendo un po' i cocci che vengono dalla conclusione. E è un po' la sconfitta di un po' la sconfitta di tutti ed è la sconfitta di un progetto politico. Bersani stava molto attento a non fare una cosa settaria, tutta rancorosa di testimonianza. Sarà una cosa che lui presenterà, lui e altri, Emiliano, Rossi, un pezzo di Sinistra Italiana, cioè, come una cosa, una costituente che si richiami all'Ulivo, che abbia moderati dentro. Oggi c'era molta inquietudine anche nei gruppi parlamentari. Senti, ti leggo due messaggi velocemente, Alessandro. Uno è appunto di un altro Alessandro che dice sulla pagina Facebook di Effetto Notte: non si possono più vedere, ma sanno che dopo la scissione diventerebbero due partitini che non contano niente. Invece, di natura completamente opposta, è un altro messaggio che dice: si dividono perché da divisi possono avere più voti, poi governeranno insieme. Quale pensi che possa essere l'esito più fondato? È chiaro che anche in caso di rottura non Bersani, gli altri, dico Bersani, diciamo, per intenderci, per semplificare, continueranno a sostenere il governo, però pongono anche un'esigenza che non mi sembra sbagliata. Insomma, qua è successa una cosa, qua il 4 dicembre è venuto giù il mondo, no? Venuto giù il mondo e dal minuto dopo non è stata fatta uno straccio di analisi della sconfitta, no? Non è stato detto al governo che è nato questo governo, non si è capito che cosa deve fare, sembra un po' figlio di nessuno, che deve fare questo governo da qua al 2010 o a quanto dura, no? È stato tutto dominato, dice, dalla fretta di un leader, dei suoi calcoli tattici, no? Uscì pure, ti ricordi l'uscita anche di Giorgio Napolitano, capo dello Stato, no? Che disse e non si possono determinare le scadenze elettorali per le tatticucce di qualcuno, cioè, voglio dire, da cronisti secondo me abbiamo anche il dovere di dire questo dibattito così anche abitato e autoreferenziale, ma il paese dov'è? Qualcuno che parla al paese, qualcuno che lo racconta, e questo è il problema di fondo. Grazie Alessandro De Angelis, a te. Buon lavoro. Con la Huffington Post. Grazie Alessandro, adesso ci dobbiamo per forza fermare perché c'è questa pausa, c'è la pubblicità, continuano i vostri messaggi dalla pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte alla quale potete aderire senza indugio, poi passeremo a molti altri temi, a tra poco. Ciao, sono Enrico Ruggeri, tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Continuano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666 sui vari argomenti di cui stiamo parlando, a parte il riassunto della giornata iniziale con tante notizie che avete sentito. Poi abbiamo parlato di questo coinvolgimento nell'inchiesta Consip del padre di Matteo Renzi, Tiziano Renzi. Abbiamo sentito un po' nel dettaglio la vicenda e aspettiamo di capire effettivamente che rilievo via questa imputazione di traffico di influenze nei confronti di Tiziano Renzi. Poi abbiamo parlato anche del travaglio sempre più forte del PD, pare che ormai la scissione sia quasi certa, lo vedremo probabilmente settimana prossima, se non succede qualcosa entro domani. E adesso invece ci trasferiamo tra pochissimo negli Stati Uniti, intanto vedo ancora i vostri messaggi sulla politica. Guido dice: spero che Bersani fondi un altro partito, Bersani and Company potrebbero rifondare il PC perché è lì che sono rimasti. E poi ancora c'è Simone che dice: cioè colui che vuol fare la scissione Bersani o che almeno la minaccia la evoca da mesi lancia un appello per l'unità, cioè l'appello che ha affidato in questa lettera alla Huffington Post, dice: cosa dobbiamo pensare? Adesso vi ricordo i fatti principali e poi andiamo sull'altro tema. Vicenda Consip, Tiziano Renzi, padre di Matteo, indagato per traffico di influenze. Le tensioni nel PD, Bersani lancia un ultimo appello all'unità: fermatevi, non stravolgiamo il PD per le velleità di uno solo. Renzi tenta la mediazione, ma la minoranza è pronta allo strappo. Roma, la sindaca Raggi annuncia un esposto contro Romeo sulle polizze, oggi è la notizia di una terza che è venuta fuori, e spunta una cassetta di sicurezza, lui si difende e dice: sono gioielli di un'amica. Il terremoto del 2009 in Abruzzo, il presidente della regione D'Alfonso indagato per corruzione, ma lui si dichiara estraneo ai fatti e fiducioso nella magistratura. Stati Uniti, l'annuncio di Trump, la prossima settimana un nuovo decreto sull'immigrazione, ne parliamo tra pochissimo. Taxi in rivolta per il rinvio nel milleproroghe delle norme antiabusivi, protesta dei tassisti a Roma e Milano, disagi per l'intera giornata. L'ennesimo femminicidio, un settantenne in provincia di Grosseto uccide la moglie con il cavo del computer, tenta la fuga e poi confessa. E poi la tragedia in montagna, aggressione in Val d'Aosta, si stacca una cascata di ghiaccio, muoiono 4 scalatori italiani. Vi aggiorno anche sulla partita di Europa League, Villarreal-Roma. Roma, adesso la Roma ha fatto un gol, conduce per 1-0, ma stiamo parlando di Stati Uniti. Ieri, a parte l'incontro storico tra Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu, Trump ha detto: ma per la pace uno o due stati, insomma non importa che siano due stati, può essere anche uno, l'importante è che ci sia la pace. Poi Trump ieri ha dovuto rinunciare al responsabile della sicurezza, Flynn, per un conflitto di interessi con la Russia, al ministro del lavoro, ma oggi già ne ha nominato uno nuovo, che è Alexander Acosta, attuale rettore del Florida International University College di Miami. Però c'è anche una polemica che era iniziata ieri con l'FBI e l'NCA, l'organo della sicurezza americana, perché Trump le accusava di diffondere le informazioni riservate illegalmente. Oggi però arriva questo articolo del Wall Street Journal, piuttosto grave, prestigioso Wall Street Journal, che dice che le agenzie di intelligence americane non si fidano di Trump perché dare a lui informazioni sensibili, temendo fughe di notizie o una loro compromissione. Altra notizia è che annuncia un altro piano sull'immigrazione. Marco Valsania, corrispondente da New York del Sole 24 Ore, come ci sintetizzi tutto questo? Un premio per sintetizzare. Sì. Continua a uscire notizia che oggi non riusciva a star dietro. Di crisi in crisi, diciamo, se l'Italia non scherza, forse anche da quelle parti domina, perché l'amministrazione Trump è in una bufera, insomma, una crisi istituzionale che non si ricorda probabilmente, come dicono i commentatori qua, probabilmente dall'epoca del Watergate, no? Scontri di poteri tra i centri, insomma, nei centri nevralgici del governo, in primo luogo, come ricordavi, tra la Casa Bianca nuova di Donald Trump e l'apparato di intelligence, insomma, con sfiduce reciproche che mettono in discussione in realtà anche appunto la sicurezza nazionale del paese. Oggi l'escalation è stata ulteriore anche rispetto a ieri, con Trump che ha preso i microfoni dalla Casa Bianca, oltre che per annunciare, come dicevi, no, una soluzione a uno dei passi falsi compiuti, cioè l'aver nominato un impresentabile candidato a ministro del lavoro. Ecco, poi accusato, diciamo, anche di maltrattamento in famiglia, tra l'altro, no, questo candidato. Ma denuncia della moglie, accusato anche di maltrattamento in famiglia, esatto, quindi insomma, esatto, accusato di discriminazione sul lavoro, nel business dei fast food e di violenza in famiglia ai danni dell'ex moglie. Ecco, ma poi Trump ha continuato appunto con una escalation di attacchi all'intelligence e ai media, come ormai, diciamo, ha abituato, però diciamo con toni sempre più duri. In un suo tweet, diciamo, prima addirittura della conferenza stampa, ha anche detto: cattureremo questi infami delatori, che sarebbero i funzionari dei servizi segreti che responsabili delle fughe di notizie. Quindi, insomma, più preoccupato della fuga di notizie che non della sostanza delle violazioni commesse dai suoi collaboratori, evidentemente. Quindi, diciamo, in una baraonda, una bufera di instabilità e di crisi istituzionale e di accuse reciproche che sicuramente non è di buon auspicio per l'efficacia della sua amministrazione, nonostante lui abbia detto oggi, diciamo, con un'affermazione molto interessante, che la sua Casa Bianca sta funzionando come una macchina di precisione. Visto questa dichiarazione, se ne è convinto lui, insomma, sarà così. Poi ha annunciato, diciamo, questo piano, ne parleremo poi appena ci sarà, probabilmente per la prossima settimana, questo nuovo piano, anti-immigrazione, dopo la sospensione del suo bando. Ma avremo tempo di parlarne. Intanto, grazie a Marco Valsani da New York. Ciao, caro Marco. Ciao a voi. Ciao. La solita bronchite. Adesso invece torniamo in Italia con questa notizia che arriva dall'Abruzzo, cioè che il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso del PD, è indagato per corruzione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio nell'inchiesta sull'affidamento di appalti del dopo terremoto del 2009. Primo Di Nicola, direttore del giornale Il Centro, buonasera Primo, ciao. Buonasera a tutti. Ci spieghi che cosa è avvenuto? Si risale quindi al terribile terremoto del 2009, quello che distrusse L'Aquila e vari paesi, no, dell'Abruzzo. Ma il terremoto dell'Aquila c'entra in questa vicenda perché uno degli episodi oggetto dell'indagine riguarda la ricostruzione del palazzo che ospita gli uffici della giunta regionale all'Aquila. Mentre poi ci sono degli altri episodi oggetto di indagine che riguardano delle vicende pescaresi e una vicenda che riguarda il comune di Penne. Ma D'Alfonso di cosa è accusato il presidente della regione? Ma è accusato di corruzione, turbativa d'asta e abuso. Quando dico elenco questi reati, tenete conto del fatto che stiamo ancora verificando, parlando con le nostre fonti per cercare di capire meglio e di più. Nel senso che quindi è ancora tutto ovviamente da chiarire, dici, no? Questo guardi, le accuse si riferiscono, per quello che siamo riusciti diciamo a mettere insieme anche attraverso una lettura che ci è stata fatta degli atti giudiziari consegnati, ci sono queste accuse, va bene, che però di corruzione, che è quella che comunque presso l'opinione pubblica finisce per avere l'effetto migliore, l'effetto diciamo più forte e devastante quasi per l'immagine di un pubblico amministratore. Ecco, ci sono queste ipotesi di reato senza però che siano in qualche modo citati atti specifici nei quali i reati, per esempio di corruzione, sarebbero stati poi consumati dal governatore Alfonso. Quindi siamo ancora in una fase, come dire, che non consente di farsi neanche un giudizio per un procedimento che è aperto e che ovviamente non assume certi caratteri dell'attribuzione di colpevolezza. Lui naturalmente si dichiara estraneo e dice che è fiducioso, esatto, nella giustizia. Con un'estrema fiducia nella magistratura, augurandosi, e questo diciamo poi è un aspetto particolare nella vicenda di Luciano D'Alfonso, una celere definizione dei fatti, essendo passato lui stesso in una lunga vicenda giudiziaria che evidentemente conclusasi bene, ma che lascia sul terreno il dolore personale, familiare, per una vicenda politica che, ripeto, ancora ha lasciato un segno in Abruzzo. Grazie Primo Di Nicola, direttore del centro. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Ciao, buonasera. Vedo intanto, prima della viabilità, un altro messaggio tra i tanti di politica. Dice questo ascoltatore: sono simpatizzante del PD, ma questo non lo capisco. Bersani sarà anche stato bravo, un bravo ministro, ma non buca. Ricorda un vecchio comunista, intelligente e colto, ma poco moderno. Solo lui, col suo giaguaro da smacchiare, poteva non vincere nel 2013. A tra poco. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. E ora, io Roberto Giordano ve le ricordo in pochi secondi. A proposito del PD, Bersani lancia un ultimo appello ai renziani: fermatevi, non stravolgiamo tutto per la velleità di una persona sola, la minoranza è pronta allo strappo. E poi la notizia del Tiziano Renzi, padre di Matteo Renzi, indagato nell'inchiesta Consip, lui dice: la mia è stata una condotta trasparente. Trump, nuovo bando sull'immigrazione, l'ha annunciato per la prossima settimana. Intanto il Wall Street Journal scrive che i 007 non si fidano di lui perché c'è un rischio di fuga di notizie, di compromissione di notizie secretate. E poi la rivolta dei tassisti in Italia contro Uber, caos e traffico in tilt, questo per il maxi emendamento al mille proroghe che rimanda una definizione di regole, insomma, a proposito di Uber e degli abusivi. E poi, per quanto riguarda la sindaca Raggi, annuncia un esposto contro Romeo perché è spuntata una terza polizza a suo favore e lei annuncia appunto questo esposto. Intanto spunta una cassetta di sicurezza a nome di Romeo, lui si difende e dice: sono solo gioielli di un'amica. Il governatore dell'Abruzzo, di cui abbiamo appena parlato, D'Alfonso, indagato per corruzione per appalti dopo il terremoto del 2009, lui dice: sono totalmente estraneo. Nel frattempo prosegue la partita di Europa League, Villarreal-Roma, sempre 1-0 per la Roma. Spazio europeo. Youzone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati gli ascoltatori di Radio 24, da Silvia Bernardi. Da emergenza a opportunità è la nuova vita dei rifiuti gestiti in modalità circolare. Non più usa e getta, ma usa e riusa in un circolo virtuoso tra produzione e consumo. Quello che prima doveva essere smaltito dopo un unico ciclo di vita diventa nuova materia prima e fonte di energia pulita, con ricadute positive sull'ambiente, dal momento che una migliore gestione dei rifiuti porta ad una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, ad un utilizzo più equilibrato delle risorse come energia, acqua, terra, nel rispetto di habitat e paesaggio, ma diventa anche volano di crescita, innovazione e occupazione. Introdurre nella filiera produttiva sistemi di economia circolare e in quella dei consumi elevati standard di riciclo porterebbe ad un risparmio di 600 miliardi di euro e la creazione diretta di 170.000 posti di lavoro. Oggi in Europa si generano 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti all'anno, che vuol dire che ogni singolo cittadino produce 5 tonnellate di rifiuti, una famiglia di 4 persone, l'equivalente del peso di un vagone ferroviario. Proviamo a immaginare quante risorse si potrebbero ottenere se quei vagoni si dirigessero in un impianto di riuso invece che in discarica. È quello che vuole fare l'Europa con la sua ambiziosa riforma della politica dei rifiuti. Ne parliamo con l'europarlamentare Simona Bonafè. A che punto siamo in Europa con l'economia circolare? Beh, siamo a un buonissimo punto perché abbiamo la posizione del Parlamento e insomma presto aspettiamo che anche il Consiglio si esprima, e io penso che entro l'anno dovremo avere finalmente la nuova normativa sull'economia circolare. Ambiente, occupazione, innovazione, ma anche riduzione dello spreco alimentare. Sì, tanto ambiente, tanta sostenibilità ambientale, ma anche, vero, tanta occupazione. L'economia circolare è questo, cioè finalmente la possibilità di tenere insieme sviluppo e sostenibilità ambientale. Infatti economia circolare significa aumento di PIL, aumento di posti di lavoro di qualità, ma significa anche tutte quelle misure di prevenzione nella generazione dei rifiuti e anche misure sullo spreco alimentare. Noi abbiamo chiesto un impegno preciso agli Stati membri di ridurre del 50% lo spreco alimentare, che insomma è un obiettivo importante, ma soprattutto è importante che nella normativa europea finalmente ci sia anche questa dimensione, che è anche etica oltre che insomma i rifiuti. Sembra un processo lungo da attivare. Si raggiungeranno gli obiettivi per il 2030? Beh, io penso di sì, anche perché sono obiettivi pragmatici, alcuni stati già li stanno raggiungendo, l'Italia è sulla traiettoria giusta, io penso che in un piccolo sforzo in più ci possa arrivare anche il nostro paese, che peraltro in quanto a innovazione e know-how insomma non è fra gli ultimi al mondo e quindi dall'economia circolare ha tutto da guadagnare. Youzone, incontro con gli europarlamentari, in collaborazione con Euronet Plus. Adesso il nostro Giovanni Capuano ci dice come procede la partita. C'è la Roma in vantaggio, Giovanni, vero? Sì, Roma in vantaggio quando siamo nell'intervallo. Villarreal decide fin qui un gol bellissimo di Emerson Palmieri. Questa è la serata davvero dei gol bellissimi per le squadre italiane. Avevamo raccontato prima il calcio di punizione di Bernardeschi sotto l'incrocio dei pali che ha regalato la vittoria storica della Fiorentina a Mönchengladbach contro il Borussia. Ebbene, Roma avanti 1-0, 32esimo minuto, un destro dai 25 metri di Emerson Palmieri, palla sotto l'incrocio dei pali, assolutamente imprendibile per il portiere del Villarreal. Pensare che Emerson Palmieri è un sinistro che ha calciato di destro e ha trovato davvero un gol incredibile. Roma che sta controllando la partita, si era resa pericolosa prima del vantaggio con un colpo di testa di Dzeko da ottima posizione, colpo di testa però debole e centrale, e poi dopo l'1-0 di Emerson Palmieri in contropiede si è resa ancora pericolosa, soprattutto nel finale con El Shaarawy, la cui conclusione è stata ribattuta dal numero 1 degli spagnoli. Siamo nell'intervallo 1-0 per la Roma. Villarreal, ti segnalo anche che sta vincendo il Manchester United, che è l'altra grande dell'Europa League, 1-0 sul Saint-Étienne, gol tanto per cambiare di Zlatan Ibrahimovic. Grazie Giovanni Capuano. E adesso, prima di lasciarci, ancora qualche vostro messaggio. Scrive Tonino da Civitavecchia, vi ricordo sia la pagina Facebook di Effetto Notte o il 349-238-6666. A fronte di reati pesanti che l'amministrazione comunale del Comune di Roma, la Procura si occupa di polizze assicurative, tra l'altro dov'è il reato non lo capisco, anche se fosse stata informata di queste polizze, la sindaca doveva aspettare la morte di questa persona per incassare il premio assicurativo a suo nome, non riesco veramente a capire. Insomma, una vicenda effettivamente ancora molto da scoprire, da capire. Poi una notizia, morto Yannis Kounellis, illustre esponente dell'arte povera, era nato in Grecia nel 1936, noto in tutto il mondo appunto di quella corrente artistica definita arte povera, ha vissuto e lavorato fin da giovane in Italia, dove dal 1956 ha studiato all'Accademia di Belle Arti. Direi che ci possiamo lasciare a questo punto e poi, lo sapete, un breve aggiornamento alle 22.